9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino torna a salutarvi dallo studio di Roma e torno a ricordarvi, chiedendovi di telefonare il numero verde 800 24 00 24, il tema di oggi. Decidiamo oggi di approfondire una questione che è intrinsecamente legata a una delle caratteristiche della maggiore ricchezza del nostro paese, il nostro patrimonio artistico, dei beni culturali, il nostro patrimonio museale. Tradizionalmente sappiamo, siamo orgogliosi di ripetere che siamo un paese in cui si accentra una percentuale elevatissima di questi beni rispetto a tutto il mondo. Il problema è naturalmente che spesso non siamo in condizione di fare il meglio di quello che si potrebbe fare di questi beni. Il problema è come metterli a reddito. Sì, uso un termine da giornalista economico e anche da economista. Mettere a reddito questo patrimonio, metterlo a reddito sapendo che bisogna tutelarlo, sapendo che bisogna naturalmente vigilare attentamente sulle migliori caratteristiche per poterlo preservare, ma contemporaneamente con una capacità di saperlo aprire alla fruizione, di saper attirare flussi crescenti di italiani innanzitutto e soprattutto anche di stranieri, perché ricordate che più del 35% dei flussi turistici nel nostro paese si accentrano, ruotano, hanno come meta prioritaria le grandi città della nostra arte, i grandi musei italiani, e purtroppo i dati del 2008 ci dicono che nella graduatoria di tutti i musei italiani noi stiamo perdendo ingressi. È un fenomeno che riguarda tutto il mondo perché il turismo è in crisi con la crisi economica, ma certo nel 2008 più di 1 milione di visitatori in meno rispetto agli oltre 25 milioni dei 30 maggiori musei italiani sono un dato su cui riflettere. Per questo oggi lo facciamo con due protagonisti assoluti di questo settore della vita italiana. Io vi ripresento immediatamente, do loro la parola. Abbiamo con noi Antonio Paolucci, il direttore dei Musei Vaticani. Buongiorno Paolucci. Buongiorno. Paolucci è stato, oltre che ministro dei beni culturali e ambientali, è stato per quasi 20 anni sovrintendente a Firenze, cioè tutto quello che a Firenze c'è dopo di lui in realtà dal punto di vista della valorizzazione del tessuto museale artistico deriva dall'opera che ha svolto in maniera eccezionale in quei quasi 20 anni, ed è noto in tutto il mondo ed è davvero un personaggio straordinario. Poi abbiamo con noi Roberto Cecchi, che è il direttore generale per i beni storico-artistici ed etnoantropologici del MIBAC, il Ministero per i beni e le attività culturali. Buongiorno direttore Cecchi. Buongiorno. Ecco, io direi di partire da la notizia del giorno è relativa a domani. Domani il pontefice Benedetto XVI inaugurerà con la cerimonia ufficiale la Cappella Paolina, voluta da Paolo III Farnese, che è una delle 3 cappelle dei Palazzi Vaticani, quindi stiamo parlando di cappelle che non sono aperte al pubblico, ma questo restauro, per le sue caratteristiche eccezionali, è uno dei classici eventi su cui l'attenzione del mondo torna verso l'Italia per l'eccellenza con cui è stato realizzato. Stiamo parlando la Cappella Paolina del Michelangelo, l'ultimo Michelangelo, con 2 straordinari affreschi di opera del maestro di cui molto si è parlato. Paolucci, ci può sottolineare come questo restauro che domani arriva a compimento è stata un po' una prova dell'eccellenza dei Vaticani? È stato un restauro che può essere considerato esemplare perché partiva da una intuizione critica, storico-critica fondamentale. È vero, nella Cappella Paolina c'è Michelangelo, l'ultimo Michelangelo, il Michelangelo della conversione di San Paolo e della crocifissione di San Pietro, ma Michelangelo non copre che i due decimi dell'intero complesso, perché altri artisti dopo di lui sono intervenuti nella Cappella Paolina, per esempio Lorenzo Sabatini, per esempio Federico Zuccheri. Non c'è stato Papa praticamente negli ultimi 4 secoli che non abbia avuto una speciale attenzione per la Cappella Paolina, perché la Cappella Paolina è quella in assoluto più simbolicamente identitaria di tutto il complesso dei palazzi apostolici, più ancora della Sistina. Perché? Perché nella Cappella Paolina, che è relativamente piccola, c'è l'esposizione del Santissimo Sacramento e ci sono affreschi che raccontano la vita dei santi apostoli Pietro e Paolo, 2 di Michelangelo, gli altri di altri artisti dell'ultimo Cinquecento. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quello è il luogo, siccome la Cappella Paolina è riservata al Papa e alla famiglia pontificia, è il luogo nel quale la Chiesa riconosce se stessa. Il Papa altro non è che il custode del Corpus Christi, suo ruolo, la sua missione è fondata sulla sequela apostolica. Lui è il successore di Pietro, gli affreschi raccontano le storie dell'apostolo Pietro, e nella tutela dell'ortodossia, e Paolo è il campione dell'ortodossia cattolica. E noi abbiamo allora fatto un restauro che teneva conto e di Michelangelo e di tutto il resto, mantenendo quell'equilibrio, quella armonia, quel reciproco rispecchiamento che gli artisti che hanno lavorato dopo Michelangelo hanno voluto conservare. Se avessimo privilegiato Michelangelo avremmo fatto un errore storico-critico. Per questo, da storico dell'arte, sono molto contento della esattezza della intuizione e della qualità del risultato. E torneremo lungo l'intera trasmissione su alcuni dei tratti caratteristici, perché molto si è parlato e si parlerà di questo restauro. Intanto immediatamente la voce agli ascoltatori, così poniamo subito le loro domande, le loro osservazioni al direttore Cecchi. Abbiamo Alberto da Roma. Prego Alberto. Buongiorno Oscar. Complimenti per la trasmissione, è sempre molto interessante. La seguo tutte le mattine. E andiamo al punto senza complimenti, sennò poi sembra che... Ascolti, il punto è solo questo. Sono recentemente stato al Louvre e visito normalmente le nostre città d'arte. Sono un appassionato, ho una figlia che è laureata in architettura e con la specializzazione in lettere e filosofia, con la specializzazione in egiziologia. Ma vediamo il punto. Il punto è questo: come mai io al Louvre per fare il biglietto non ho fatto se non 3 minuti di fila, sono stato guidato nei vari spazi molto celermente, mentre se vado ai Musei Vaticani devo fare 3 ore di fila all'aperto, se vado agli Uffizi devo fare 5 ore di fila all'aperto, se vado a Venezia in alcuni musei devo fare 7 ore di fila all'aperto. Non sarebbe il caso di accelerare, modificare, aprire con orari più Grazie Alberto, la domanda è chiarissima. Adesso un secondo ascoltatore e poi facciamo rispondere per le rispettive competenze, perché naturalmente i Vaticani sono extraterritoriali rispetto alle competenze del direttore Cecchi. Filippo da Pistoia, prego Filippo. Buongiorno, senta, io ho un problema grossissimo e praticamente quando vado al museo non trovo una persona che mi accompagni durante il tragitto. Comunque, ma il museo, quando lei dice vado al museo, quando lei dice vado al museo, quale? E non so come fare, piuttosto rimango lontano dal museo. Ma in generale posso chiederle, quando lei dice vado al museo, la sua esperienza si riferisce a quali in particolare? Sono stato agli Uffizi, quando sono stato agli Uffizi ho chiesto all'azienda che mi doveva accompagnare all'interno e a che ora potevo arrivare, mi hanno detto alle 4 e lo vedrai tutto. Io sono arrivato alle 4, ho avuto difficoltà a trovare persona e non ho fatto in tempo a girarlo tutto. Grazie Filippo, quindi la sua esperienza insomma è di una certa resistenza a saper dare informazioni utili. Ancora l'ultimo ascoltatore per questo primo blocco, Roberto da Treviso. Prego Roberto. Sì, buongiorno. Allora io così volevo riferire la mia esperienza, che è, io non sono una persona coltissima, no? Quindi quando vado a girare a vedere dei musei arrivo e conosco sufficientemente poco di quello che vado a visitare, no? Vado così a capire cosa succede. Per esempio mi viene in mente il Museo Egizio a Torino. Io sono entrato, conosco poco dell'Egitto e sono uscito, vabbè, ho visto le cose, però erano tipo parcheggiate in un magazzino, insomma, no? Cioè non so, faccio un paragone con altri musei. Che lei, posso stato... chiederle, è andato al Museo Egizio di Torino prima del riallestimento o recentemente? Sì, qualche anno fa, no? Prima del riallestimento. Sì, ero appena stato a Londra, un altro museo, e insomma ho notato una differenza notevole. A Londra, vabbè, insomma, era in inglese, però le guide erano molto più, cioè ti inducevano alla visita, no? Roberto, la interrompo, ma è chiarissimo cosa dice. Cioè, direttore Cecchi, come vede, le prime osservazioni di getto degli ascoltatori sono: nell'esperienza comparata gli altri sono più organizzati e efficienti. È un problema di risorse, di personale? Che tipo di problema è? È un problema di risorse e un problema di dimensioni. I musei statali italiani sono 400. In Francia i musei statali sono una piccolissima parte, si contano sulle dita di 2 mani, sostanzialmente siamo intorno a 15 musei. Quindi si tratta di un problema di organizzazione che il paese deve trovare. Non a caso, mi pare che proprio in questi mesi il Presidente del Consiglio abbia fatto rinascere il Ministero del Turismo. Quello che manca al paese è un problema di collegamenti e di dare una dimensione, una struttura di coordinamento che consenta effettivamente di coordinare. La Francia è perfettamente coordinata su tutti i livelli amministrativi, turistici, eccetera. Da noi siamo sostanzialmente delle monadi, ogni comune, ogni regione diventa una struttura a sé, mentre ci vogliono indubbiamente delle strutture di coordinamento. Hanno ragione questi signori ad intervenire e a lamentarsi, però noi dobbiamo poter contare su una tela, su una maglia, su un sistema che consenta anche il trasferimento, per esempio, tra i musei statali e quelli comunali. Per far questo bisogna fare sistema. Il paese in questo momento non lo ha. Mi sembra che un primo passaggio, al di là di quello che possono pensare alcune regioni, la creazione di un Ministero del Turismo che possa fare da interfaccia con quello dell'amministrazione dei beni culturali per la fruizione dei musei, sia un passo in questa direzione. Se non accadrà questo, se non faremo sistema, è chiaro che rimarrà il problema degli Uffizi. Non so per i Musei Vaticani se si possa dire la stessa cosa. Posso fare una domanda? Quando rispetto al calendario delle grandi mostre, che sono uno degli strumenti attraverso i quali, con la realizzazione di grandi mostre a tema, attirare flussi aggiuntivi nella vista dei musei o negli spazi espositivi, ma nel calendario delle maggiori mostre nazionali c'è un qualche coordinamento o è frutto solo dal basso di come le regioni a quel punto si auto-organizzano? Non c'è un frutto di coordinamento, tant'è vero che il mio ufficio autorizza la bellezza di più di 800 mostre l'anno in Italia e all'estero, quindi vuol dire che noi ci occupiamo di 4 mostre al giorno, perché i giorni lavorativi sono circa 200, ma non c'è una regia. Anche in questo caso ciascuno viaggia per la propria strada, per cui accade che più di una mostra chieda le stesse opere. Ripeto che ritorniamo al discorso di prima. La Francia si dimostra perché, più efficiente. Tanto per fare un esempio, non è una critica, ma chi ci ascolta lo sa. Questo è vero che l'anno del futurismo, però le due grandi mostre, Milano e Roma, in corso in parallelo, magari comportano inevitabilmente richieste di opere analoghe e sovrapposizioni. Inevitabilmente. Quindi c'è il paese dei campanili, penso a San Gimignano, Firenze, eccetera, è molto bello perché vuol dire che ciascuno è in grado di organizzare se stesso al meglio e questa è una vitalità del paese che non va sottovalutata, va valorizzata probabilmente anche sotto un profilo economico, come scriveva Derrida diversi anni fa. Il comune, il campanile è il motore del paese. Però tutto questo insieme di motori non dico che vada riunito ad unità, ma un minimo di coordinamento va trovato. Paolucci, uno degli ascoltatori diceva le musee, le file, lamentava le file per ore di fronte ai Vaticani, che è un problema sul quale però recentemente poi il museo si è intervenuto. Sì, ci sono molte iperboli, molte esagerazioni quando si parla dei musei. Le code ai musei Vaticani non ci sono praticamente più, perché il sistema nuovo della prenotazione online ha enormemente fluidificato l'ingresso, quindi non è vero, bisogna aspettare ore. I musei italiani, si dice, offrono un orario di apertura ridotto, non è vero, gli Uffizi sono più aperti del Louvre come numero complessivo di ore. In realtà, quello che è molto difficile far intendere agli italiani, la vera carattere distintivo del nostro paese non sono i grandi musei pop, i grandi musei mediatici, il Louvre, gli Uffizi, non è quello il carattere distintivo dell'Italia. Il carattere distintivo dell'Italia è la meravigliosa rete dei musei cosiddetti minori, dei musei civici. Quel ragazzo di Pistoia che ha trovato difficoltà agli Uffizi è mai stato nel museo civico della sua città? Nella piazza del Duomo di Pistoia, nel palazzo di Giano, avrebbe trovato i Coppo di Marcovaldo, i Lorenzo di Credi, pittura romanica e rinascimentale assolutamente affascinante. Ci vada. Questo è quello che bisognerebbe... Lei diceva prima... Questo è uno dei motivi, lo dico a chi ci ascolta, per cui Paolucci una volta in un'intervista recente ha detto: se io immagino il paradiso, lo immagino non come il Museo degli Uffizi, come tutti si potevano aspettare, sì, ma come il Museo del Bargello. Come il Museo del Bargello, sì, perché il Museo del Bargello è la raccolta di tutte le tipologie d'arte, è la bottega dell'antiquario. Vede, lei prima diceva... I musei devono dare reddito, e l'ha detto con una brutalità che ho apprezzato. Io vorrei aggiungere questo. Vede, è una riflessione che hanno fatto le élite borghesi del mondo, in Europa, in America, fra la fine del XVIII secolo e tutto il XIX secolo e l'inizio del Novecento. Quella gente ha investito soldi nei musei, e questa è l'epoca in cui nascono i grandi musei del mondo: Berlino, la National Gallery di Londra, il British, il Louvre, il Metropolitan di New York, eccetera. Hanno pensato che il reddito che davano i musei è l'incivilimento della gente. Trasformare le plebi in cittadini, e la scuola e il museo servono a questo. Le plebi che diventano cittadini vogliono dire operai più bravi, tecnici più consapevoli, imprenditori più svegli e più intelligenti. Questo è il reddito, non altre cose. La interrompo perché sul tema della scuola abbiamo un ascoltatore da Firenze. Paolucci ti tira molto evidentemente dalla Toscana. Franco da Firenze è in linea? Buongiorno a lei e ai suoi illustri interlocutori. Breve come sempre. Sì, io volevo fare una proposta, volevo sapere un parere dal signor Paolucci. Io praticamente pensavo, ho 34 anni, vivo a Firenze, città bellissima, e mi tocca praticamente andare in questi posti splendidi dove praticamente c'è tanta cultura. Però le posso garantire che per la plebe, quella terra, cioè gli operai eccetera, spesso volentieri non conosciamo le bellezze che ci stanno dentro Firenze. Allora io faccio una proposta: il comune, la regione e il governo dovrebbe incentrare tramite i bambini come veicolo di conoscenza dei musei, cioè organizzare, facendo partecipare i bambini a tappe, tipo far vedere musei eccetera ai propri genitori, in modo tale che c'è questo stimolo che porta parecchia gente, mi creda, il 70% non va a vedere quello che c'è di bello nella città. Franco, la interrompo, è chiarissimo. Lei dice: se non ci pensano le scuole fin da piccolo ad avvicinarci al nostro patrimonio, è difficile dopo. Direttore Cecchi, che dice? Si fa abbastanza? Non si fa abbastanza. C'è stato un momento della nostra storia in cui addirittura si è prefigurato lo scenario di togliere la storia dell'arte dall'insegnamento a scuola. Cioè, la storia, la cultura, fa parte integrante. E vi sottolineo che c'è chi è architetto, non è storico dell'arte come formazione, quindi non parla pro domo sua. Non parlo pro domo mia, sì, è vero, sono un architetto. Cioè, quando si arriva a questo vuol dire non aver inteso lo spirito identitario del paese. Lo spirito identitario del paese è quello di cui parlava prima Paolucci. Il patrimonio culturale della nazione è un patrimonio diffuso come da nessun'altra parte del mondo, cioè è intessuto, addirittura è lo stesso edificio che assomma in sé tutta una serie di interventi che probabilmente talvolta vanno all'intorno dei 1000 anni. Penso al San Marco di Venezia, che abbiamo immaginato essere una basilica costruita in epoca medievale. L'interno di quella basilica è una struttura bizantina. Cioè, la particolarità di questo nostro paese, letta da un francese, André Chastel, è stata proprio quella di dire: guardate, attenzione, c'è una particolarità della particolarità nel patrimonio culturale italiano. Non c'è l'edificio gotico, l'edificio rinascimentale in sé perfettamente definiti e conclusi. C'è un tessuto connettivo all'interno dello stesso edificio, dello stesso bene culturale. Eccoci tornati in studio, Oscar Gino torna a salutarvi. Stavamo parlando del meccanismo di finanziamento attraverso il quale è stato possibile questo meraviglioso restauro della Paolina. Mi pare Paolucci che la Cappella, con questo lavoro andato avanti molti anni, in realtà si è giovato di un flusso di finanziamento integralmente privato, da quello che ho letto. Sì, sì, i finanziatori del restauro della Cappella Paolina, che è durato 5 anni, abbondanti, i finanziatori sono queste associazioni associazioni di cattolici americani, ma non solo, che si chiamano Patrons of the Art in the Vatican Museums. È gente che tira fuori dei soldi non solo per l'amore dell'arte, ma anche perché ci tengono a sottolineare, questo è tipico dell'America, la loro identità cattolica. Quindi, e poi il Vaticano è un brand, come si dice, che tira molto, come è facile capire. Direttore Cecchi, io da anni, questo come giornalista che si occupa di attività economiche e in generale di temi tributari, ho vanamente sostenuto l'utilità di incentivi fiscali per uso di parti di patrimonio privato a sostegno della tutela oppure anche della di possesso temporaneo, possesso e non proprietà, di beni culturali ai fini di una valorizzazione per la loro maggior fruizione da parte di privati. Perché in effetti, se uno va a vedere nella storia comparata degli ordinamenti, abbiamo musei negli Stati Uniti soprattutto, in cui i privati hanno concentrato milioni e milioni di dollari. Il Poggietti è famoso per tutto, è famoso anche per le parti che ci deve restituire del patrimonio e che ha illegalmente, e di cui alcuni pezzi stanno tornando proprio in questi mesi. Ma al di là di tutto, lì c'è un'incentivazione fiscale molto forte. Da noi su questo c'è un po' di resistenza, per così dire. E che dice? Ma io credo che avessimo la miglior legge sul patrimonio culturale, legge che disciplina la materia, quella dell'82, la legge Scotti, che consentiva degli sgravi fiscali totali, consentiva il recupero di risorse. Man mano questa legge è stata nel tempo, dall'82 in poi, come dire, dalla volontà della parte economica di essere prevalente, di guardare il giorno per giorno e di non guardare in prospettiva, è stata, come dire, quasi annullata, svilita. Nel 1982, quando nasce questa legge, addirittura noi siamo costretti a costituire presso le sovrintendenze i cosiddetti uffici vincoli, perché gli uffici vincoli consentivano di proteggere degli edifici e contemporaneamente di avere degli sgravi fiscali. Nell'arco del tempo, ma anche molto breve, tutto questo meccanismo di sgravi fiscali è stato quasi sostanzialmente annullato, e quindi quella legge che aveva un valore anticipatore anche a livello internazionale quasi non esiste più. Ma non conta anche nell'annullamento che è andato avanti negli anni, al di là della volontà dello Stato in Italia di mantenere sempre intatti i flussi di cassa, non ha forse pesato anche un po' un riflesso condizionato, forse anche un po' un pregiudizio, ma questa è una mia opinione, molto forte nel ceto professionale amministrativo che si occupa della a cui è affidata la tutela dei beni italiani, che ha un po' di riflesso condizionale culturale per il quale si teme sempre un po' l'ingresso del privato o l'affidamento temporaneo al privato. Anche recentemente, nelle polemiche che sono ruotate intorno al Consiglio Superiore dei Beni, il presidente uscente Settis, mi ricordo qualche mese fa sul Sole 24 Ore, al domenicale del Sole 24 Ore, ha un lettore che diceva: ma perché non incentiviamo di più i privati, gli affidiamo per esempio parte del patrimonio che sta nei depositi dei musei, che non è aperto al pubblico, che non ha accesso alla fruizione, glieli affidiamo naturalmente col vincolo pubblico sopra. E la risposta di Settis era: beh, ma attenzione, forse è meglio tenercelo nei depositi, perché se non avessimo fatto così con i reperti di Ercolano, due secoli di deposito, non avremmo avuto poi gli straordinari avanzamenti nell'egesi e nell'interpretazione. Quindi non c'è anche questo riflesso culturale? Parlo di architetto e quindi erano storico dell'arte, quindi forse dovrei immedesimarmi nello storico dell'arte o dell'archeologo, che tendono ad avere una visione un po' da vestali della tutela. Abbiamo portato, d'intesa con il Polo Fiorentino, con il sovrintendente Acidini a Milano, il Davide di Donatello. Mi pare che sia stata un'espressione importante. E l'avete portato alla fiera, la fiera di Roma. Quindi alla fiera di Roma, e ha fatto storcere il naso ai puristi della, non della tutela, ai puristi in generale, di un qualcosa che non so. Mi pare che sia stato invece un attrattore, però lascio agli economisti valutare il fatto che si siano portate ben 75.000 persone. Quando, se non ricordo male, al Bargello, in un anno il David viene visto da 25.000 persone. Allora, Non c'è un problema di tutela. Che cosa è accaduto? C'è stato un decremento di valore? L'abbiamo in qualche modo messo in discussione perché l'abbiamo portato in una fiera? Io non credo. Il paese si rappresenta attraverso queste cose. Mi pare sia stato un momento di valorizzazione, cioè di mettere in mostra il nostro valore e di farlo conoscere anche a chi non lo conosceva. Non ci vedo niente. Mi sembra anche una piccola prova generale in vista di quello che potrebbe avvenire nel 2015 con l'Expo, in cui è una straordinaria occasione per tentare di mettere pezzi importanti della nostra identità culturale, dei nostri beni, eccetera, in visione. Io dico, solo che però in vista del G8 che parte mercoledì della settimana prossima, io ho visto anche lì partire dal basso di fronte a ipotesi di spostare al G8, alla sede G8 all'epoca in Sardegna, importante testimonianza dell'arte italiana, e la reazione generale dalle sovrintendenze era un no grazie. Quella Ma io prima. Credo che non sia un no grazie. Certamente delle preoccupazioni ci sono, perché poi alle volte il paese si dimostra debole di fronte a situazioni di emergenza anche di carattere espositivo. Io credo che non dovremmo parlare in un forum un po', forse che abbia più il carattere culturale, laicamente. Invece talvolta questo sistema della tutela sembra essere qualcosa che ha i caratteri della religiosità. Siamo di fronte ad oggetti sui quali credo che sia legittimo parlarne. Forse potremmo discuterne, ma dovremmo prendere una posizione. Abbiamo centinaia di migliaia di pezzi all'interno dei nostri depositi. Io credo che qualcosa si debba e si possa sicuramente fare. Alberto, penso a quello che è la situazione, faccio per dire, dell'Accademia a Venezia. Il deposito dell'Accademia, ci sono 2000 pezzi. 400 di questi andranno a finire nel raddoppio che si sta realizzando, ma gli altri 1400 forse una qualche riflessione dovrà essere piuttosto fatta, che lasciare nei depositi. Alberto da Pisa, su questo mi sembra che abbia un'idea. Prego Alberto. Sì, dunque, una parte è già stata detta, grazie prima di tutto per avermi richiamato. Io quello che ho pensato tante volte è che siccome abbiamo una quantità di opere d'arte, anche architettura, che è quella che si presta meglio per questo scopo, da non avere per i nostri scarsi mezzi a disposizione la possibilità di mantenere nella maniera più adeguata, ovvero sia restaurate come si deve. Faccio un esempio: fra Pisa e Lucca ci sono oltre un centinaio di chiese romaniche di cui la maggior parte sono chiuse o magari saranno anche... E quindi lei dice cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare che di darle in adozione, dato che non ci possiamo permettere di mantenerle, in adozione alla Sony o alla General Electric o a chi sia, aziende anche italiane ovviamente, le quali potrebbero poi farsi pubblicità, invece che mettere le donne spogliate sulle riviste, forse quelle attirano di più, ma dire io Sony ho contribuito a una bella targa e che lo sapessero gli italiani, fatto diffuso in maniera tale da dire io ho contribuito a restaurare la chiesa di San Paolino a grazie in maniera tale da poter avere Alberto, la interrompo perché confidavo che il pubblico di Radio 24 avesse qualche idea in proposito. Anche Davide, che chiama dalla provincia di Padova, vuole intervenire su questo. Prego Davide. Sì, buongiorno. Io in realtà porto un'idea che non è mia, ma è di alcune regioni della Germania, che hanno semplicemente fatto una cosa. Alcuni anni fa è passata una legge quasi a trabocchetto all'italiana, diciamo, hanno creato una cosa. Ci sono aziende in giro per il mondo che possono prendere in leasing anche delle chiese o delle cose, diciamo, non più utilizzate o difficilmente da recuperare, parliamo della ex DDR, tanto per capirci, e hanno fatto questo, glielo danno per 25 anni in leasing. La società può detrarlo completamente, giustamente essendo un diritto, e in questi 25 anni viene aiutato, diciamo, dal punto di vista anche dello Stato, a gestire meglio questa risorsa che ha il paese. Grazie Davide. Grazie Davide, molto chiaro. Che dice Cecchi? Ma ci sono delle soluzioni in Italia, forse non sono così conosciute. Io penso ai comitati internazionali per Venezia. Dal 64, se non ricordo male, tirano fuori circa 2 milioni di euro l'anno per il restauro di questi beni, che sostanzialmente loro adottano, fanno fare gli interventi all'amministrazione dei beni culturali, cioè alle sovrintendenze, e vengono restituiti alla godità pubblica attraverso interventi di privati, che poi pubblicizzano. Cioè, non gli diamo il leasing, ma in qualche maniera le affidiamo nelle mani. E questo succede sull'intero territorio nazionale. Il fenomeno veneziano è particolarmente rilevante, interessante e particolarmente forte e strutturato. Però ci sono altre forme che hanno questo carattere, che non arrivano a forme di leasing o di trasferimento del patrimonio, ma molto simili. Tenete conto che abbiamo una quantità di patrimonio immobile che la Francia e la Germania neanche si sognano. Stiamo parlando di 500.000 oggetti sull'intero territorio nazionale. Dalle altre parti, la Francia, ricordo che di beni vincolati, di monumenti, ne ha 40.000. Quindi bisogna, quando parliamo di patrimonio culturale italiano, dobbiamo sempre metterlo all'interno della dimensione del fenomeno. Abbiamo 500.000 oggetti tutelati. La Francia ne ha 40.000. Paolucci, quando qualche anno fa lei è uscito dai ranghi dell'amministrazione pubblica italiana e poi è stato chiamato ai Musei Vaticani, ha visto questa sua uscita dai ranghi di una onoratissima, prestigiosa carriera, ma anche come una liberazione da qualche vincolo di troppo e l'assunzione di possibilità invece di decisionali e realizzative migliori per via del fatto che il Vaticano, insomma, ha delle regole un po' diverse, oppure no? No, c'è ogni contesto ha le sue regole, i suoi protocolli che vanno rispettati. Diciamo che nel complesso Vaticano c'è una maggiore fluidità, una velocità di decisioni più alta, ma non è questo il punto. A me interessa molto quello che è stato detto prima, anche dagli interventi degli ascoltatori, che mi confermano quanto è successo negli ultimi 30 anni. Il liberismo americano è entrato da noi in forma tumultuosa e naïf. E non si è capito. Più naïf che tumultuosa. Sì, dire sì, la ma verità, anche tumultuosa, perché appoggiato dai politici, dagli assessori. Non si è capito che sono l'Italia, l'Europa e l'America sono realtà radicalmente diverse. In America i padri fondatori hanno deciso, da 200 e più anni, proprio oggi è la festa della indipendenza, che lo Stato pensa a pochissime cose, pensa alla pace, alla guerra, alla moneta e alla giustizia, là tutto il resto ci devono pensare i cittadini. Volete delle buone università, ve le pagate, volete i musei, ve li pagate. Questa è l'America. Santa cosa, dico io, ma lei dice la nostra storia è diversa. Noi siamo un'altra cosa, abbiamo conosciuto i fascismi, i comunismi, i socialismi, le infinite forme di welfare, i corporativismi, noi siamo italiani ed europei, quindi quando sento parlare di fondazione all'americana, io metto mano alla pistola, perché so cosa vuol dire. Vuol dire un board fatto dai sindacalisti, dagli assessori, dalle fondazioni bancarie, che sono realtà pubbliche o semipubbliche, ma non private. Che bella questa cosa che paragona le fondazioni bancarie ai sindacati, mi vado in sollucero, Paolucci. Sì, ma lo so perché. Sa che in Italia è minoritaria questa. Lo so, ma mi fa piacere dirlo a lei perché so che ho un riscontro in lei. Sì. Quindi quando sento arrivare questi riverberi americani, insomma, con la mia esperienza di italiano... Si applicherebbero in maniera diversa, lei dice. Si applicherebbero in maniera diversa. Oscar Giorino torna in studio a salutarvi. Stavamo commentando nella pausa che bisognerà probabilmente aspettare che un ministro dell'economia particolarmente innamorato del patrimonio dei beni artistici museali italiani capisca che quello che di buono c'era nella legislazione italiana, invece che avviarlo a un'ingloriosa fine, possa essere riutilizzato, perché degli strumenti comunque c'erano e appunto avevano consentito una grande ripresa della stagione del restauro e del ripristino. Faccio una domanda sia a Cecchi che a Paolucci, ma noi non abbiamo forse anche sbagliato modello? Come dite voi, la natura del patrimonio italiano così diffusa, così enormemente più ricca e articolata, non imporrebbe qualche cosa di diverso dal meccanismo che continua ad attirare i grandi flussi verso, li ha chiamati musei pop, Paolucci, cioè quelli classicamente dove la gente si mette in fila per andare a vedere poi in realtà quasi sempre l'unica opera che conosce lì, perché poi Louvre in Francia è la Gioconda, gli Uffizi, la Primavera e il Botticelli o qualche cosa di analogo, mentre invece piuttosto che quelli concentrare tutto su altri ciechi. Ma è il tentativo che si sta facendo. Faccio anch'io l'esempio fiorentino. Le ville Medice a Firenze non se le guarda nessuno. Ma lo stesso Bargello, che ha 200 metri di distanza dagli Uffizi, nessuno se lo guarda. Ora, non possiamo chiedere all'amministrazione dei beni culturali di fare un lavoro che non gli è proprio. Cioè, noi non siamo dei promotori turistici. Altri che sono promotori turistici si devono far carico di prendere le nostre indicazioni e di utilizzarle. In realtà è molto semplice arrivare a Firenze e portare le persone agli Uffizi, da lì vengono fuori le code. Ma se noi riuscissimo a ragionare, e alle gallerie dell'Accademia, ma se riuscissimo a ragionare e a far ragionare le persone che esistono altri oggetti da vedere, si creano dei biglietti unici, si creano delle situazioni che consentono a questi turisti mordi e fuggi di imparare altre cose, probabilmente tornerebbero. Faccio presente che a Roma le terme di Caracalla si visitano al quarto giorno. Non è un oggetto primario di interesse. L'oggetto primario di interesse è il Colosseo. Noi non riusciamo a portare dalle altre parti. Però, ripeto, non si può chiedere a fare al Ministero per i beni e le attività culturali l'attività di promoter. Chi deve fare l'attività senso devono essere altri soggetti. Anche perché io porto un dato che mi auguro brutalmente efficace ed eloquente. Nel 1938 agli Uffizi entravano 50.000 persone all'anno. Oggi ne entrano 1,5 milioni, 70 anni dopo, non tempi biblici. Ebbene, io sono convinto che fra quei 50.000 del 38 che uscivano dagli Uffizi c'era come numero più gente che aveva capito qualcosa, ricordava qualcosa rispetto al 1,5 milioni di oggi. Perché? Perché quei 50.000 erano un'elite, era gente che aveva una biblioteca in casa, che aveva fatto gli ottimi licei e le eccellenti università degli anni 30. Quelli di oggi, anche i diplomati, anche i laureati, sono gente che non ha mai letto un libro, che guarda solo la televisione, che non saprebbe scrivere nella sua lingua madre una riflessione di mezza cartella senza errori. Questo è il problema con cui dobbiamo confrontarci. E noi italiani avevamo il sistema tutelare più avanzato del mondo. La legge del 39, fatta da Bottai, ministro fascista. In parte un calco della legge Rava-Rosati del 39, fatta da un socialista e da un liberale. Questa è la grandezza dell'Italia e dell'Europa. Tutto questo viene rottamato, non usa più, non funziona più. L'idea di Bottai era quella di tutelare il patrimonio ovunque distribuito e comunque posseduto. E chi doveva farlo doveva essere un tecnico, uno del mestiere, un archeologo, uno storico dell'arte, a seconda delle specifiche competenze. Questa era l'idea grande che aveva l'Italia negli anni 30, il momento più alto nella storia moderna d'Italia. Io vi invito chi è a casa, perché come conosco il pubblico, di solito ha delle reazioni obbligate. Si sta parlando del merito di quelle misure prima di ricevere le reazioni obbligate, che mi si dice che stiamo facendo apologia del regime. Attenzione, Paolucci ha parlato del merito, perché sai, il pubblico ha delle reazioni di questo tipo. Ecco, assolutamente condivisibile. Certo. Cioè, questa nostra legge di tutela del 39, che è rifluita legge adesso nel codice Urbani, viene presa a livello internazionale come punto di riferimento. Si sta cercando di imitare la legge e la struttura di tutela, cioè le sovrintendenze, altri paesi d'Europa e non, stanno cercando di dire: possiamo veder di fare come ha fatto l'Italia per la conservazione del suo patrimonio culturale? Allora vuol dire che la struttura della tutela funziona. Quel che gli sta intorno non funziona. No, ma noi stiamo però ragionato sull'articolo 117 della Costituzione, per cui la valorizzazione passa ad altri. Adesso siamo noi di nuovo a rioccuparci. Tant'è che abbiamo fatto una direzione generale per la valorizzazione. Vuol dire che ci sono altre parti della pubblica amministrazione dello Stato che non fanno quello che deve essere fatto. Attenzione, naturalmente io ho l'obbligo di dirvi, perché alcuni sms dicono attenzione, però, che così significa che c'è uno scaricabarile, perché se le competenze sono troppo frazionate e sono altre che non fanno il promoting o sono le regioni che non coordinano, la questione è, dite chiaramente che bisogna tornare ad accentrare, ad avere una regia unificata. No. La tutela, per essere efficace, deve essere lontana ed indifferente. Lontana, cioè affidata a un ministro che cambia ogni 6 mesi, eccetera. Indifferente. Cioè, se ne frega dei pur legittimi interessi di quello che può fare il garage sotto casa. Questo è. La tutela deve essere lontana e indifferente. Sentite, noi dobbiamo essere i garanti di questo patrimonio. Sì, chiarissimo. Una domanda che vedo si affaccia in molti sms. Dice: interrogatevi se nei giorni di apertura gratuita si formano flussi di accesso che nei giorni a pagamento non ci sono. Saranno prezzi bassi, ma come mai c'è una risposta così più elevata quando l'ingresso è gratuito? Perché quello che è gratis piace di più di quello che costa. Quindi non c'è un problema di accesso in termini di bigliettazione? No. nella mia esperienza non c'è, perché se guardo a quanto si paga all'estero, adesso a dire la verità, perché poi molti equivocano, scusate se ve lo dico, quando torno negli Stati Uniti e ci sono, vanno ai musei come metti, dicono ma lì l'ingresso è gratuito. Ma gli Uffizi, quanti musei sono di un singolo museo francese dove io pago, inglese o tedesco, sì, certo, dove pago, no? Sono qualche centinaio di musei messi insieme. Adesso non ricordo il costo del biglietto, ma mi sembra sui 6-7 euro. Al 6,50. Ma io, a me soprattutto ce l'ho con gli italiani che, abitando a Viterbo, non sono mai andati nel Museo Civico, dove c'è la deposizione di Sebastiano del Piombo col notturno più bello della storia dell'arte italiana, e magari sono stati al Metropolitan di New York o al Louvre. Questo, ecco, mi scandalizza. Prima andate a Viterbo, al Museo Civico. Io ho sempre pensato che quando si è giovani si gira molto, poi nella vecchiaia si va a Viterbo. Beh, lo dico amando Viterbo, però voglio dire, questa è la giustificazione. Ma sa perché? Perché io trovo che dire agli italiani è colpa vostra abbia un ritorno negativo. Perché la gente dice, ma come? Sarà vostra la colpa che siete responsabili, non nostra. Ma no, se non vanno a vedere il loro museo a Viterbo, la colpa sarà loro che ci stanno lì, no? Senta, la domanda però è, questa Paolina meravigliosa che noi non vedremo perché giustamente è per il pontefice, come questo restauro verrà utilizzato però accesso al pubblico? Cosa farà? No, nessun accesso al pubblico, se non agli studiosi, a quelli che hanno titolo e diritto di vederlo, gli altri non lo vedono. Ah, beh, questa chiusura elitista è della trasmissione assolutamente reazionaria e elitaria. Vedete che poi nell'extraterritorialità e senza suffragio universale forse si tutela meglio. La domanda è, ma ce ne occuperemo la prossima settimana, se quando si hanno livelli di complessità decisionale così elevati il suffragio universale non diventi un lusso che forse non ci possiamo, lo dico con tono cupo apposta, più permettere. Ecco, su questa chiusa epocale io vi do appuntamento per la prossima settimana, lunedì. Viva il patrimonio culturale italiano. Bene. Grazie a Cecchi, grazie a Paolucci. Bene. Hey.